Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi va in scena la contraddizione, perché il nostro protagonista è uno dei personaggi più controversi, più chiacchierati della scena del rock. È uno che a vederlo sembra il principe delle tenebre, un figlio di Satana in persona, uno che sul palcoscenico decapita le bambole, si fa decapitare lui con la ghigliottina, porta al collo un boa constrictor vivo, ha uno show particolarmente cruento tra vedove nere e mostri che possono arrivare sul palco, e che lo hanno fatto nel corso di tutta la sua lunghissima carriera che dura tuttora. E però è anche uno che, a leggere con attenzione i suoi testi, dimostra altre cose, anche un'attenzione, un amore quasi cristiano verso il suo prossimo. È uno che parla anche di amore, di religione, di problemi sociali. Però è un uomo che è sceso negli inferi della dipendenza dall'alcol, ha rischiato la vita e poi ha avuto il colpo d'ala straordinario per risollevarsi e dimostrare negli anni tenacia, determinazione. È diventato un esempio anche per i suoi fan e per gli amanti del rock. A chiederlo sono parecchi ascoltatori e noi ne ascoltiamo uno che si chiama Emanuele Bonaventura. Buongiorno Emanuele. Buongiorno Enrico. Sei soddisfatto della mia presentazione? Sì, direi che è perfetta. Lo individui come un personaggio contraddittorio per certi versi? Sì, assolutamente. Beh, dobbiamo svelare ai nostri ascoltatori ciò che per adesso io e te ci stiamo raccontando da vecchi amici senza renderli partecipi. Noi oggi parliamo di Alice Cooper. E perché tu hai scelto di chiedermi di parlare di Alice Cooper, Emanuele? Ma è un personaggio che seguo da tantissimi anni, fin quando mi sono avvicinato a un certo tipo di rock, diciamo. Sì. E in effetti poi finalmente ho avuto occasione di andarlo a vedere dal vivo e mi sono un po'... Quando l'hai visto dal vivo, Emanuele? Prima volta 2003 a Brescia. Ah, vedi, perché a Brescia c'ero anch'io in quel concerto lì. Ah. E quindi non ci siamo sfiorati senza saperlo. Grande concerto. Bellissimo. Bene, Emanuele, io ti ringrazio e buon ascolto con i nostri demoni e con Alice Cooper. Grazie mille. Quel concerto di Brescia 2003 mi vide tra gli spettatori assieme a mio figlio Pico, oggi Pico Rama. Allora aveva 13 anni, io ero il classico padre separato che non sa bene dove portare il figlio, e l'ho portato a vedere il concerto di Alice Cooper. Il bis di quel meraviglioso concerto era una sosia di Britney Spears, che usciva a cantare il singolo, quello famoso di Britney Spears. Alice Cooper, che arriva da dietro, la decapita con una scimitarra. Noi eravamo a 3 metri, sembrava veramente che ce l'avesse decapitata sotto agli occhi. Dopodiché ha mostrato la testa infilzata dalla scimitarra al pubblico, e quindi io e mio figlio Pico, colpiti fisicamente dal sangue di Britney Spears che ci arrivava addosso, ci siamo abbracciati e lui mi ha detto: papà, grazie, questo è il giorno più bello della mia vita. Ecco, insomma, Alice Cooper è servito anche a un povero padre separato come me per cementare un rapporto col proprio figlio. Non a caso mio figlio Pico Rama, i primi 2 album, è andato in giro a fare i concerti con il cilindro come omaggio a Alice Cooper. E quindi parliamo di lui, del fondatore di una band alla fine degli anni 60 e poi cantante solista dal 1974. Una carriera che prosegue da oltre 40 anni, è famoso negli Stati Uniti, fa parte della vita del paese, è stato citato dai Simpson, è stato ospite del Muppet Show, è stato parte di un allestimento artistico di Salvador Dalì. Ci sono persone che lo seguono da una vita e i giovani che lo hanno scoperto di recente, anche perché lui non è rimasto fermo a un solo genere. Certo, lo possiamo ascrivere al mondo del rock, anche del rock duro, ma ha scritto molte canzoni nelle quali ha sfiorato il folk rock, il blues e poi un po' di new wave, heavy metal, l'hard rock, con album soprattutto quelli più recenti con sonorità più industriali, più alternative, insomma ha fatto veramente di tutto, ma il filo unico che ha unito le sue produzioni musicali è stato lui, artista sincero che ha sempre espresso quello che aveva nel cuore, capace di toccare le vette del rock più esasperato, ma anche di comporre ballate d'amore incredibilmente toccanti. Only women bleed. E qui c'è subito una differenza dalla maggior parte dei personaggi come lui, perché Alice Cooper non nasce da una situazione difficile, non viene da una realtà fatta di povertà, di degrado, non è un bambino sofferente privato dell'affetto di una famiglia normale, tutt'altro. Lui è stato molto amato, sostenuto dai suoi, e forse proprio la normalità della sua famiglia di origine che lo porterà a scelte anche pericolose. Naturalmente lui non si chiama Alice Cooper, lui si chiama Vincent Damon Fournier, nasce a Detroit il 4 febbraio del 1948, il padre Ether è un ministro della Chiesa di Gesù Cristo, una congregazione di mormoni, ed è un padre amorevole e devoto alla moglie e ai figli, Vincent e la sorellina Nikki. Io sono il figliol prodigo, sono il perfetto esempio di figliol prodigo. Mio padre era un pastore evangelista, anche mio nonno era un pastore. Mio suocero è un pastore battista. Io sono cresciuto con la chiesa. Tutti i miei amici erano bambini di chiesa. Ci siamo divertiti così tanto. Andavamo in chiesa la domenica, ma anche il mercoledì, il venerdì sera. Tutta la mia vita sociale gravitava attorno alla chiesa e ai bambini che la frequentavano. All my social life was based around kids in the church. Un padre strano che conosce a memoria i versetti della Bibbia, ma è un grande appassionato di musica rock, passione che trasmette al figlio. E poi le prime band, 1964, Dennis Dunaway e John Spears sono i suoi primi compagni di avventura. E ascoltate proprio lo stesso Dennis Dunaway, che diventerà il bassista di Alice Cooper, che ricorda il loro inizio molto pittoresco. Alice e io pensammo, perché non facciamo una parodia dei Beatles? Durante gli spostamenti nel deserto, quando ci allenavamo per le corse, per rendere i viaggi meno noiosi, cantavamo le parodie delle canzoni dei Beatles. Le trasformavamo in inni sportivi. Invece di She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah, cantavamo I'll Beat You, Yeah, Yeah, Yeah, Ti Batterò. Decidemmo di metterci delle parrucche per assomigliare di più ai Beatles e ci chiamammo The Earwigs. Insomma, Vincent Fournier sta diventando Alice Cooper. Il falco e il gabbiano. Il futuro Alice Cooper diventa vocalist degli Earwigs, sono le prime band dei ragazzi compagni di scuola. Il padre li incoraggia. Quando si chiamano spiders, cioè ragni, il reverendo costruisce per loro un'enorme ragnatela di legno, insomma dà il via a quella forma di spettacolarizzazione dei concerti che sarà una delle grandi innovazioni di Alice Cooper. Poi cambiano nome, diventano i Neds, poi scoprono che c'è già un gruppo con quel nome, bisogna cambiare, scegliere un nome ancora nuovo, la scelta non è facile. Poi Vincent se ne esce con una trovata che cambia per sempre la vita della band e successivamente soprattutto la sua. Dissi, a chi assomigliamo? Ad Alice Cooper. Mi ricordo che il primo nome che mi è saltato in mente aveva una strana qualità, quel nome, e faceva dire alla gente: cosa? Chi è Alice? Una ragazza. Ma loro sono tutti maschi. Chi è Alice Cooper? Ci dissero anche: se vi mettete un po' di nero sotto gli occhi, un po' di rosa sulle guance, sarete una perfetta Alice Cooper. Ok, non avevo problemi a farlo. Mi dovevo pur costruire la mia reputazione in città. Chi suggerisce ai ragazzi quel trucco esagerato è una nostra vecchia conoscenza che ogni tanto ricorre nelle nostre storie, Pamela Desbars, ricorderete la Gruppi a cui abbiamo dedicato una puntata, quella dei calchi dei membri, è quella che ha avuto come amanti quasi tutte le grandi rockstar, soprattutto americane, e le GTO, che sono un po' il gruppo di gruppi che fa capo a Pamela, sono quelle che prestano ad Alice Cooper, anzi anzi agli Alice Cooper ancora, i trucchi, la lacca per i capelli, degli accessori stravaganti. Insomma, Alice Cooper esordisce come una vera e propria band, 5 elementi: Vincent Fournier, Michael Bruce e Glenn Buxton i chitarristi, Dennis Dunaway al basso e Neil Smith alla batteria. Ma perché un figlio di un pastore mormone con i suoi amici si traveste in maniera così trasgressiva, eccessiva, in un periodo in cui quel genere ancora non va di moda? Ricordiamoci che, per dire, i Black Sabbath di Ozzy Osbourne arriveranno almeno 5 anni dopo. Nessuno aveva mai visto una cosa del genere. Era tutto peace and love, pace e amore. Poi c'eravamo noi che sembravamo usciti da una tomba. Facevamo paura, eravamo rumorosi e tutto questo lo sbattevamo in faccia a tutti. Eh sì, gli Alice Cooper di Vincent Fournier sono tra i primi a capire che quel mondo un po' fricchettone di figli dei fiori, amanti della pace, in qualche modo andava superato, comunque si poteva costruire un'alternativa. E l'alternativa si fa anche con i modelli che inizialmente non sono modelli musicali ma cinematografici. La prima colazione, ma certo, Miss Watson! Abbiamo studiato una dieta apposta per voi, adatta per voi, Miss Watson! Uno dei film preferiti della band era Che fine ha fatto Baby Jane, con Bette Davis, che in quella pellicola aveva spalmato in faccia e sotto gli occhi un trucco disgustoso incrostato con un eyeliner carico e spesso. Quel trucco così abbondante e sfatto le dava un aspetto orripilante. Un altro film che guardavamo in continuazione era Barbarella, ma Jane Fonda preferivamo il personaggio di Great Tyrant, che era interpretato da Anita Palmberg. Indossava vestiti di cuoio ed una benda da pirata. Poi le uscivano delle lame dalle dita. Il look di Alice Cooper si sviluppò come combinazione di quei personaggi. E intanto, grazie alla groupie Pamela Desbar, Vincent Fournier conosce il suo idolo Frank Zappa e il manager di Zappa, che si chiama Shep Gordon. Incontro decisivo, perché Zappa e Gordon hanno una loro etichetta, la Straight Record, che nel 69 pubblica l'album di esordio degli Alice Cooper, Pretty's For You, un album in un certo senso rivoluzionario, perché le tematiche trattate non sono quelle tipiche di quel periodo storico. Qua si parla di morte, tortura, necrofilia, argomenti poi riconosciuti come tipici dello shock rock, di cui Alice Cooper sarà un illustre rappresentante. Poi un secondo album ancora di scarso successo, Easy Action, e poi la band va da Los Angeles a Detroit e avviene un incontro decisivo. Bob Ezrin, il grande produttore di Lou Reed, dei Pink Floyd, di Peter Gabriel, e con lui e gli Alice Cooper realizzano il primo di una lunga serie di album, Love It to Death. Siamo nel 71, un album che esce dall'influenza di Frank Zappa per entrare nell'hard rock e che contiene una canzone destinata a diventare una delle hit di maggior successo di Alice Cooper, una canzone che diventa subito disco d'oro, catapultando da un giorno all'altro la band nell'Olimpo delle star. Il brano si intitola I'm 18, ho 18 anni. E la macchina si mette in moto e nel 71 viene organizzato un tour per lanciare il quarto album, Killer, ed è qualcosa di mai visto prima, impianto scenico e teatrale che trasforma il concerto in un vero e proprio spettacolo, nei quali i membri della band, e soprattutto lui naturalmente, sono anche attori e partecipano a vere e proprie rappresentazioni da film horror, con forche, ghigliottine, maschere orripilanti, sangue finto, serpenti veri. È un'esplosione di colore, suoni, di danze, di effetti scenici da gran guignol. Insomma, diventa il marchio di fabbrica di Alice Cooper. E nel 72 arriva la consacrazione definitiva. L'album è School's Out, con una copertina incredibile che io ovviamente posseggo in vinile, a forma di banco. Si apre il banco e dentro ci sono delle mutandine femminili di rete rosa e c'è il disco. La canzone che dà il nome a quello che è il quinto lavoro degli Alice Cooper è l'inno della generazione studentesca degli anni 70 e da molti esperti è stata definita una delle più belle canzoni rock di tutti i tempi. Il falco e il gabbiano. Alice Cooper, il nostro protagonista di oggi, uno dei cantanti più controversi e discussi della storia del rock, un principe delle tenebre grazie ai suoi travestimenti, però anche uno degli artisti più longevi, è sulla scena da oltre 40 anni e i suoi concerti, peraltro forse uno degli artisti che ho visto più spesso dal vivo, l'ho visto 4-5 volte, i suoi concerti sono, diciamo così, macabri, sono cruenti, sono un concentrato di spettacolarità noir fatta da ghigliottine, bambole decapitate, serpenti veri, però una particolarità che lui ha è l'ironia, perché comunque Alice Cooper ha un asso nella manica, quello di non prendersi mai completamente sul serio, e poi grandissime canzoni, e poi leggendo i suoi testi si scopre un Alice Cooper diverso da quella che è la sua immagine, perché le sue tematiche sono certo a volte esasperatamente horror, ma a volte invece si va su religione, su libertà di espressione, su problemi sociali. Ma nel nostro racconto siamo arrivati a 72, arriva la grande fama grazie all'album Schools Out, e anche oggi a 40 anni di distanza, anzi 45 anni di distanza, il concerto deve finire con Schools Out. Io l'ho visto per esempio una volta venire impiccato, penzolare, poi sono arrivati dei preti che lo hanno tolto da come era, l'hanno infilato in una bara, hanno appoggiato la bara al muro, e con uno dei suoi trucchi da quella bara è uscito lui vestito di bianco con il cilindro bianco e ha chiuso il concerto con Schools Out. Ma intanto c'è un'altra consacrazione del gruppo, un altro grandissimo album, un grandissimo successo, Billion Dollar Babies, dove ci sono grandi canzoni come No More Mr. Nice Guys, ma soprattutto la canzone Billion Dollar Babies. Successo straordinario, i ragazzi diventano delle star, e la cosa, se da un lato è fantastica, dall'altro li sottopone a uno stress non indifferente, e a soffrire in particolare proprio Vincent. I had to be Alice. Dovevo essere Alice sempre. Se ero in un ristorante dovevo saltare sui tavoli, se andavo ad un concerto dovevo come minimo essere cacciato via. Allora mi ubriacavo per poterlo fare, perché essere così per me non era naturale. E qui scatta la dicotomia, perché Vincent Fournier è un ragazzo educato in un certo modo, viene da una famiglia con dei valori, di sicuro viene da un ambiente, dalla mentalità aperta, da genitori che appoggiano la sua passione per la musica, ma anche da una famiglia che gli ha insegnato che sui tavoli non ci si salta, si deve comportare bene, insomma lui è un americano con un modo di fare molto british, e quindi fa fatica a portare dietro di sé nella vita reale il personaggio sfrontato che interpreta sul palcoscenico. È così che per farcela comincia a bere. Da quel momento ho bevuto almeno una birra al giorno, fino a che non ho smesso di bere. Avevo trovato il mio posto nel mondo. Quando mi svegliavo, prima di aprire gli occhi, mandavo giù 2 o 3 sorsi di birra. Allora potevo alzarmi. Poi accendevo la tele sui cartoni animati, continuavo a bere e mi dicevo: ok, sono pronto per la giornata, andiamo. Insomma, è difficile portare avanti una vita di questo tipo. I ragazzi stanno vivendo il successo in modo conflittuale. Sta di fatto che dopo l'uscita di Muscle of Love nel 73, la formazione, diciamo così, degli Alice Cooper si scioglie. Vincent Fournier procede con la sua carriera da solista, ma siccome capisce che tutti avevano identificato lui come Alice Cooper, decide di andare avanti così, mantiene quel nome, e per il suo primo album da solista si avvale dell'amico Bob Ezrin, produttore, e di un gruppo fantastico, il gruppo di Lou Reed, con 2 chitarristi stratosferici che si chiamavano Steve Hunter e Dick Wagner, e da questa collaborazione nasce quello che è considerato il punto più alto della carriera artistica di Alice Cooper, Welcome to My Nightmare, un concept album che narra la lenta e progressiva discesa nella follia di un giovane di nome Steven. Welcome to my la dall'album Welcome to My Nightmare, vi assicuro che è un vero e proprio capolavoro, ve lo straconsiglio. Peraltro c'è dentro anche un cameo di Vincent Price, canzoni bellissime, cioè un album veramente di peso, al di là di tutto il resto che sono i concerti, che sono eventi memorabili, effetti speciali, balletti, sceneggiate horror. C'è questo duello a un certo punto tra Hunter e Wagner, cioè tra i due chitarristi, con dietro dei ballerini che si arrampicano su un'enorme ragnatela durante la canzone appunto The Black Widow, la vedova nera. Nel 1976, cioè nella tournée che segue Welcome to My Nightmare, li si incontrerà quella che è diventata sua moglie, che lo è tuttora, la ballerina e coreografa Cheryl Goddard, che stava ballando, era uno di quelli, una di quelle che si arrampicavano sulla ragnatela, e da questa ballerina ha avuto tre figli. Mi dice: sono Alice Cooper. E io: chi è? Chiedimi tutto di Bach o di Rachmaninoff, ma di rock non so proprio niente. Poi uscimmo insieme per 9 mesi, ci fidanzammo e dopo 3 settimane mi chiese di sposarlo. Sapevamo che era la cosa giusta e lo facemmo. Ma neanche un matrimonio felicissimo, cosa peraltro molto rara tra le rock star, riesce a cambiare le abitudini di Alice, che continua a bere per trovare il coraggio necessario per impersonare il suo ruolo, e quindi si rende necessario un primo ricovero in ospedale per disintossicarsi. Così, dopo altri album molto belli, e tra cui vi segnalo Go to Hell, arriva proprio il resoconto della sua durissima esperienza, quella della disintossicazione. L'album è From the Inside del 78 e lui lo scrive assieme a Bernie Taupin, che era il paroliere storico di Elton John. E poi altri dischi, il genere cambia un po', sta arrivando la new wave e l'artista peraltro non è in forma perché non si è disintossicato affatto, insomma continua a ricadere nel baratro, e la testimonianza del produttore amico Bob Ezrin è chiara. Nel frattempo siamo arrivati nel 1980. Avevo paura per la sua vita. Andai a casa sua e lo trovai in uno stato di sofferenza acuta. Piangemmo insieme, parlammo. Gli dissi: sei come un uomo senza la pelle. Tutto quello che ti tocca ti fa male. Ora tu hai bisogno di sicurezza. La situazione è sempre più drammatica. Alla fine Cheryl, la moglie, decide di dare al marito un segnale forte. Gli dice che vuole divorziare. E quando i due si incontrano con i rispettivi avvocati, stanno per firmare l'atto davanti al giudice, Alice pronuncia una parola: stop. Afferra Cheryl e le dice che il loro matrimonio non può finire per colpa dell'alcol. Lei risponde: lo so, questo è il colpo d'ala, perché da quel momento Alice Cooper non toccherà mai più un goccio di una qualsiasi bevanda alcolica. Mio padre, prima di essere un ministro della Chiesa, era un bevitore, un forte bevitore. Ma quando divenne pastore, smise, da un giorno all'altro. Non beve né fumò mai più. Io pensai che la mela non può cadere troppo lontana dall'albero. Insomma, Alice Cooper torna a essere per un po' solo Vincent Fournier, si dedica alla famiglia, compare in alcuni film horror, tra i quali Il Signore del Male di Carpenter, e riprende la sua attività lentamente. Gli album sono di minor successo, Constrictor, Raise Your First and Yell, dove peraltro però c'è Freedom, che è un brano molto amato dai fan di Alice Cooper. L'anno della rinascita è l'89, c'è un colpo d'ala, l'album è Trash, un album al quale partecipano gente come Steven Tyler e Bon Jovi. E poi ci sono altre canzoni in quell'album, come Poison, House of Fire e Bed of Nails. Così Alice Cooper con Trash riesce ad approcciare una nuova generazione di teenager, diventa una vera e propria icona. La sua attività riprende su più fronti, esce l'album Hey Stupid, dove collabora con Ozzy Osbourne, quindi un album più heavy metal. E poi partecipa a uno dei film della fortunata saga horror Nightmare 6, dove interpreta il ruolo di Mr. Underwood, il padre adottivo di Freddy Krueger. Freddy! Sei pronto, ragazzo mio? Sei sempre stato un buon a nulla. È arrivata l'ora della tua medicina. Grazie, signore. Hai già finito. E poi recita la parte di se stesso nel film Fusi di testa, poi torna alla musica. Il progetto è ambizioso, The Last Temptation, un concept album che ha sempre per protagonista il giovane Steven, il suo incubo, il ragazzo che ha gli incontri particolari con se stesso e col suo inconscio, quello che aveva già incontrato in Welcome to My Nightmare. E lì si parla approfonditamente del concetto di religione di Alice Cooper. The very fact that he cared enough about me to save my life about 20 times. È chiaro che Dio ha tenuto talmente a me che mi ha salvato la vita almeno una ventina di volte e mi ha aiutato a sopravvivere a un milione di cose diverse per mettermi dove sono ora. E io ho questa sfida, essere un cristiano nel mondo del rock. Mi metti con i filistei e va bene. La fede va vissuta ogni giorno. Io vivo in un mondo che non è il mio mondo, lo so, ma io ci vivo e provo a vivere la mia fede. È la mia testimonianza. Attenzione però, non è che questo cambia il modo di salire sul palco di Alice Cooper, e il suo look è sempre lo stesso e i concerti sono sempre improntati all'horror, lui sembra sempre un principe delle tenebre, lui continua a decapitare bambole, si avvolge sempre i serpenti intorno al collo, ma il messaggio è chiaro: io faccio teatro, spettacolo, ti mostro scene orripilanti, ma sono paradosso, finzione, gran ghignoli, ironia. Ricordati che però se devi scegliere tra il bene e il male, non andare mai verso il male, perché è una cattiva idea. E questo è quello che lui continua a raccontare anche negli album più recenti, Brutal Planet, Dragon Town, The Eyes of Alice Cooper, e questo è quello che racconta anche in Nights with Alice Cooper, che è un programma radiofonico che va avanti da più di 10 anni, seguitissimo sia negli Stati Uniti che in altri paesi, tra cui perfino l'Australia. Nel 2008 un altro concept album, Along Came a Spider, che racconta la storia di un serial killer chiamato Spider, e poi nel 2011 un altro colpo d'ala, perché è un meraviglioso concept album che si chiama Welcome to My Nightmare 2. È un altro album che vi straconsiglio, perché è la dimostrazione che anche invecchiando si può fare del rock con suoni nuovi che non alterino la propria identità sonora. Insomma, un bel capolavoro stilistico. E poi però c'è la Solid Rock Foundation, che è una sua organizzazione nata con lo scopo di aiutare i bambini, i teenager, nella difficile fase dell'adolescenza, una vera e propria scuola che offre corsi di musica e di sport con l'intento di tenere i giovani lontani dalle droghe e dall'alcol, il problema che Alice Cooper conosce molto bene. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, e poi ci sono personaggi che di colpi d'ala ne hanno dati a decine, sono saliti, scesi, precipitati e ritornati in alto grazie anche al loro grande talento. È il caso di Alice Cooper, un caposcuola del rock, e se non lo conoscete abbastanza vi siete persi qualcosa di molto grosso. Se avete delle storie che voi volete che io racconti, mandateci dei consigli, dei commenti al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure al sito radio24.it, oppure venite a cercarmi sulla mia pagina Facebook, Twitter, o sulle pagine Facebook e Twitter del Falco e del Gabbiano. Ciao, a domani. A horror that no